però hanno fatto quelle LP, il burattino senza fini, sono solo canzonette, non so, forse tu sei troppo giovane, ma quelle canzoni, o Branduardi, non so se hai mai visto un concerto di Branduardi, cacchio, rimani scioccato quando vedi suonare il violino a quello lì, o cantare, o comporre musica, è una cosa di un altro pianeta, cioè, poi intendi questi quattro gagarioli e sono cantanti. Ma lascia perdere, sono gustizio. Neanche c'è un fraiore, perché c'è un fraiolo. Alla fine ti suona la chitarra di un artista, mi. Sono cagabantarone, io li chiamo, tutti dici, ma chi c'ha chi del lavoro? Magari Peggy Fedez. Vabbè, cantano così, ma c'è gente molto peggio di loro ancora, mi. C'è gente molto peggio, mi. Certo, fa capire cosa ascoltano i ragazzi di Urci, a parte che non è musica, è rumore, secondo me, perché io, a parte che non riescono, è tutta roba sintetizzata, non esiste uno strumento vero, tutto quello che senti è tutto bum bum bum bum bum bum bum bum, non c'è uno strumento, e per cui non è musica, è rumore, ne sento tutto il giorno in officina, per cui se non intendi il rumore me ne mango in officina, non c'è bisogno di sentirli su CD o su MP3 o quello che è, per cui lasciamo perdere. A me piace la musica, dove senti gli strumenti, il pianoforte, la chitarra, il violino, cioè riesci a identificare gli strumenti, non dico mettere un'orchestra, perché quello solo pochi lo sanno fare, però cacchio, non mi puoi scrivere di trovare il coso di distorsioni, di rumori, di cose, e senti questa cosa, bum bum bum bum bum bum bum bum, cioè, se la così e poi cambia il ritmo, da bum bum bum bum bum diventa bum bum bum bum bum e cambia, cioè non è più musica, io, tanto che poi questi ragazzi, se tu li fai sentire l'altra fedeltà, non sanno neanche che cos'è, non hanno mai sentito lui una registrazione dove senti la voce che sembra che ce l'hai vicino a casa, parlando vicino a te. Io una volta ho ascoltato, la prima volta che ho ascoltato a un certo livello, mi sono girato, pensavo ci fosse gente di vicino a me in casa, perché non avevo mai sentito il respiro del cantante, c'era un sospiro prima di cantare, ha fatto così e poi ha parlato. Io sono rimasto, come sono spaventato, quella è alta fedeltà, no, sentire la musica in macchina con le cuffiette, eccetera, eccetera. Poi, vabbè, le cuffiette, ci sono cuffiette con i contrapalle, tu prendi le Bose, prendi un'altra marca, sono cuffie che cucciano montoni di là, però quando tu te lo metti nelle orecchie è tutto quanto un altro mondo, Ma lo sai che mi sono dimenticato? Un periodo c'aveva anche il batterista di Michael Jackson, Vasco Rossi. Vasco Rossi è una cosa, musicisti americani di tutto, è una cosa incredibile. Se qua c'è tubo delle cuffie buone, ci sono, ma devi spendere i soldi. E c'è cagaiti cosa spendono? Ma intendi da musica che fare la baffa e la mare. E ti sbatto le gambe, ti faccio di farcelo gambo. Sì, no, vabbè, assolutamente la cuffia, se c'è una sorgente buona, ascolti direttamente il segnale diretto con la massima qualità, non c'è cassa che tenga, perché c'è attaccata direttamente alle orecchie, ci sono casse da cuffie da migliaia di euro, non cerchiamo il discorso, però se tu stai ascoltando una pennina oppure attaccata al telefonino, che cazzo di qualità puoi avere tu? Non esiste, per avere certe qualità devi avere delle, come si chiama, dei processori di altissimo livello, dei master di qualità, e non c'è cassa che tenga, perché se c'è una cuffia di un certo livello per avere l'impianto che vuoi non riesci ad arrivare a quelle prestazioni. Infatti ci sono dei cultori dell'alta fedeltà, non ne hanno casse, ascoltano solo con cuffia perché non hanno trovato le casse che li soddisfano, dei compositori di musica, di orchestra, violinisti. Io conosco uno che mi ha venduto un apparecchio a me, come si chiama, Andrea, adesso me lo ricordo, che questo qua ha suonato, uno dei pochi che ha suonato al mondo, mi ha venduto un amplificatorino di quelli di altissimo livello, e lui dice io non ne ascolto con le casse, io ascolto solo con cuffie. Questo è un violinista a livello mondiale, uno dei primi 5 al mondo, che ha suonato a New York con lo Stradivari, c'è uno dei pochi che gli hanno permesso di suonare in quei posti lì, e si chiama Andrea, ma non mi mette mai ancora un nome, e mi ha venduto questo piccolo amplificatore, ma c'ha una qualità spaventosa, e lui ascolta solo con cuffia, e io ti posso dire, sono un grande appassionato di alta fedeltà, l'impianto mio è discreto, però sento che manca qualcosa, ma tu lo senti tu, tanto così, tutti che l'hai fatto sentire a bocca aperta, però secondo me manca qualcosa, non è quello che voglio io. Dipende, io non l'ho mai sentito il suo, ma sicuramente è buono, non è buono, ma di più anche, c'è anche un impianto che costa parecchi soldi. No, vabbè, quello sì, normale, però ti ripeto, quando tu ascolti la realtà, la voce umana, tu la qualità dell'impianto la devi ascoltare con la voce umana. Fa una registrazione e poi ti riascolti con la voce lì e ti rendi conto delle differenze e noti che la qualità, il punto migliore per valutare l'impianto è la voce umana, deve essere naturale, non deve essere troppo caricata di alti, di bassi, dico col transistor è assolutamente difficile, a meno che non c'è un mega impianto, riprodurre la voce umana si va solo con la valvola se vuoi arrivare a quei livelli lì, e così se ci sono certi strumenti, se devi riprodurre il piano, lo sai quanto è difficile riprodurre un piano? È la cosa più difficile, uno degli strumenti più difficili da riprodurre, perché c'ha tante tonalità, tante frequenze, per cui è molto difficile. E io molte volte quando ascoltavo certe cose dico, cacchio, ma manca qualcosa. E tu lo senti, tutti quelli hanno ascoltato a bocca aperta, beh, per dire che ascolto il Rocco, per il Rocco l'impianto che ho io è da paura, perché senti cacchio il basso, la cassa, eccetera, eccetera. Che... Però se devi ascoltare certi tipi di musica, dico, manca qualcosa. Scappa. Ma non è karaoke tu? Sì che ce l'ho. Ah, e allora una di vengo mi porto una canzone. Ah, ma ti posso dire, non è questo tipo di... Io lo portavamo al mare, io lo portavo per gli amici, ci divertivamo, ma non sono cultore di queste cose, no? Non me ne ha fatti nulla. Infatti, molte volte facciamo karaoke, io gli davo la roba, ma non è che me ne ha fatti assai. A me mi piace quando mi devo ascoltare la musica, seduto, tranquillo, non ci devono essere rompimenti di scatole, proprio mi deve prendere la canzone, me ne ascolto, tranquillo, rilassato. E poi, quando vuoi fare il rumore, è un altro discorso. Ma ne hai musica da scaricare? C'è un benino un bel potente ciò. Ma me ne hanno dato, questa ragazza è la figlia di un amico che fa le serate, le fa ancora, anche se adesso ultimamente non so per il Covid se le hanno fatte, e mi ha dato tutto, però non me ne ha fatti, ripeto, lo facevamo giù al mare a Platamona, le canzoni principali, ma non mi sono mai attentato a cercarne altre, c'avevo Van Basco, poi me ne ha dato altre, eccetera, lei ha cambiato tutto tipologia e mi ha dato tutto, ma ormai entri su internet e trovi quello che mi sto appassionando, sono sempre stato appassionato di mixaggi, perché c'ho il 1200 giradischi, e poi mi sono comprato un paio d'anni fa la console della Phantom, quella è bella, però direi anche se sono quel mondo diventi un mostro, ti diverti, io sono di quelli sovrapposizioni, campionamenti, e mi diverto di lì, anche se sono da me che non la uso. A me mi piace anche, adesso ce l'ho anche io, però mi piace anche cantare, mi piace. Oh, se canto io mi va l'aria, lascia perdere. Non è per me, no, non mi piace. Mi sarebbe piaciuto suonare uno strumento. E mi piace Luca, per quello Luca c'era molta pazienza, ha iniziato a trimpellare e è diventato bravo. Luca, l'amico qua del CB. E sarebbe stato bello imparare uno strumento. Io sono la tastiera, l'avevo regalata a mia figlia, lei è brava. Anche se adesso non si è più messa, ma quella c'aveva orecchio, suonava, trovava le note, qualunque cosa gli davi, flauto, chitarra, tastiere, ci vuole talento e pazienza. Io purtroppo, ma no, né uno né l'altro, ho detto, se per caso mi arrestano, mi danno qualche anno di carcere, mi faccio dare una chitarra e magari imparo lo strumento, perché io mi stufo subito. No, a me piace cantare, roba. Mi sono appassionato al canto, per la verità. E allora andiamo a parlare più rum, non è lui, anche lui canterino. Danny è un bel appassionato di queste cose, no, io no, non mi piace. C'è gente proprio che esce di gambo, va a fare karaoke apposta in questi locali, vabbè adesso c'è il Covid, quando non c'era il Covid, io c'avevo amici che proprio andavano il sabato sera a fare karaoke, proprio non volevano l'ora. No, vabbè, lo stavo rifacendo. Ma devi stare attento dove lo fanno, perché poi se per caso si mettono a ballare, c'è musica, fa ballare, entrano e ti fanno subito chiudere. No, stai tranquilla, stai tranquillo. No, io già E quando non so che imbriaco che canto tutto canta la cipi di ciampa. Se no ce l'ho già, canto bene, ci sono tranquillo. Io ho mia figlia piccola, la più piccola, se la vedi cantare rimane a bocca aperta in inglese, lei parla perfettamente l'inglese. Cacchio, ti vedi, ha proprio come si chiama, con sentimento, io me la barito uscito, dico, ma dove cacchio hai imparato tu? Cacchio invece, quella che è brava, brava, si arrangia suonando e di cantare neanche a parlare, ma la piccola, proprio ribella, la vedi, io la trovo molte volte a casa, da Simone il Conso, che la base musicale canta, ma proprio molte volte canzoni in inglese, tu rimani a bocca aperta, dico, ma li hai imparato, dici? Perché ci vuole anche, c'ha una bella tonalità, sale molto in alto, eccetera, e gli piace, lei è fissata con cantare, la vede in macchina oggi, ha fatto un poco da muro, si è fermata, e noi ci pigliano per scemica, e lei ci mette il video, e ci vede, sta cantando, dice, ma tu non canta, vai dove stai andando? No, ma già piace, sono con rispetto il linguaggio e quando gioco appena allora un po' caretto poi maglio qualche farà ora già andare a giomfra già te lo trovo il video, te lo mando. Ah, già me l'avevi fatto vedere, ma in sassarese pure tu? Qualche canzone la faccio anche in sassarese. Ma quando ero un gotto, ma suonare niente? No, suonare no. Neanche se imparare a chitarra e cose così. Ce l'avevo la chitarra, volevo imparare. Io ho la chitarra che era di mia figlia, che lei è andata a chitarra a scuola, e il professore l'ha mandata a un bel, e dove era brava, e ferma di lì. E poi va giù, va, io va neanche a parlare, proprio in vero, ho provato, l'ho preso quando eravamo ragazzini, la madre aveva preso quelle cose che davano all'edicola, il corso di chitarra a fascicoli, e ti spiegava tutto, sempre, ma no, neanche a parlare. Mio fratello un po' si era messo, lui c'aveva più pazienza di me, qualche nota riusciva a fare, ma io proprio zero. Così la tastiera, mi sarebbe piaciuto imparare a suonare, perché anche tale è difficile, la tastiera provare qualche, imparare qualche cosa, ma proprio non sapere da che parte iniziare. Allora ti arrangi con la console. Sì, la console infatti è quello, io sono molta fantasia, metto canzoni che non mettono in nulla con altri generi, poi faccio tutti questi effetti, cose, perché io sono appassionato, mi piace costruirla la musica, anche se adesso col computer fa tutto quello che vuoi, però non mi dire a cantare, a fare, so ascoltarla la musica perché riesco a valutarla, la qualità, perché sono sempre stato da piccolo, sempre abituato ad ascoltare, molto perfezionista, nel senso curavo le qualità delle cose, quando avevo la stazione radio ero uno di quelli che è proprio preso forte, scrupoloso, la qualità sonora, infatti quando avevo certe radio dico, ma non è possibile, una radio commerciale, nel senso che lo fai per far soldi, esci da schifo, io con una radio proprio a livello casareccio ti facevo 10 a 0. Ah, conosci a Valerio, conosci? Sì, è certo. A cosa? Vabbè, va qua la radio. Fratelli, uno dei fratelli Tanda, come si chiamava, va, non me ne ammento, che poi si è ammalato. Zanza, sta dicendo, il fisio le no, Tanda, e di che radio? No, le conosco tutto le radio, a parte adesso magari è cambiato qualcosa, ma io tutte le radio di Sassa le ho tutte frequentate, le conoscevo tutti in persona. Tanda, e che radio era? Non me lo ricordo, lo devo chiedere a Roberto, lo devo chiedere, che è il fratello. Era bravo quando era giovane, poi dopo si è ammalato. Ma tu stai parlando di DJ o di padrone di radio? C'era un Tanda DJ con Radio Bene, ha lavorato un periodo. Sì, no, io sto parlando proprietario di radio, sto parlando, no, non speaker, speaker lo stesso ne conosco tantissimo. Scappa, non mi ricordo il nome dei... già ce ne sono già di speaker, c'è anche magari che c'è che tu ne conosci Radio Oasi. Sì, quello è giù di la Terosa, Ah, ma io sapevo nei tempi miei, quando parliamo di radio, quando erano le alburi, la radio è iniziata, le radio private dal 76, e c'erano due o tre radio a Sassari, parliamo di radio di qualità, Radio Giovane era la numero uno, poi è uscita Radio Zero, stesso qualitativamente di emissione era la numero uno, come qualità di speaker, la numero uno è stata per tanti anni Radio Giovane, quando c'erano tutti i migliori DJ dell'E, poi sono uscite tutte le radioline, chiamiamole di Casalecce, dai, ma speaker professionisti non c'era, tutta la gente andava a Gussi a far vendare, non c'era, le contavi sulle punte delle dita le radio dove c'erano speaker che lo facevano per lavoro, gli altri andavano così un'oretta a mettere qualche disco e qualcosa. E allora conosci Alberto? Alberto chi? Carbone. Alberto Carbone, ma speaker? Qualche anno fa, mi pare, vabbè, tu non me, io lo conosco di persona tuttora, lui che cantami. Non sono presente, vabbè, tu sei molto più giovane di me, io sto parlando della radio sino agli anni 90, poi dopo ho mollato tutto, però dagli anni 70 in poi, diciamo dagli anni 80 in poi, tutti li ho conosciuti e frequentati, qualcuno ha trovato anche qualche attrezzatura, abbiamo fatto degli scambi, qualcuno mi ha dato delle cose a me, eccetera eccetera. Chiappa. Sì, cioè qualcuno me l'hanno detto, e come si chiamava la tua? No, la mia è una radio di quartiere, Radio Action, lavorava in questa zona qua, non ho mai messo potenza, non mi una futtiva nuda, io lo facevo per divertimento, no, c'avevo il programmino mio, mi facevo, poi c'era un altro amico mio, un paio di amici venivano così, più che altro era base musicale, non so, però ti posso dire, nella zona nostra, dove sono io, ero molto ascoltato, certo, poi c'era una radio molto più potere che cosa, ma non me la fottiva nuda, io l'ho fatta per divertimento. Che è? Capo, la fotografia ti ha mandato a chi ci canta davvero, vai me. Ah, chi c'è bravo me. Ma di che cosa canta? Di tutto canta, e mi ti indica che la cantano dei nomadi. No, ma lui poi è un cantante. Non lo conosco, come si chiama il cognome? Dimmelo, forse ho capito chi è. Carboni. No, non lo conosco. Bravo, è cantando. Là c'è qualcuno, io ogni tanto quando capitava in qualche ristorante, pizzeria, localina, cosa, qualcuno in gamba già c'era, ma il 90% non volevano, ho visto c'era certa gente. Mamma mia. Scappa. Ma puoi fare. Che si giovane, gli ultimi leghe di adesso sono tutti antiquati, cantanti. Sì, diciamo, la maggior parte non sanno fare. Io 3 anni fa sono andato, mi hanno invitato a una manifestazione, c'erano tutti questi extracomunitari, tutti stavano festeggiando, loro la chiamavano festa della primavera, eravamo già a giugno noi, perché di lì i musulmani forse la festeggiano diversamente da noi, più avanti, verso maggio era, noi la festa della primavera inizia il 21 aprile, di lì la chiamavano festa primavera e sembrava festeggiare a maggio, e c'erano tutti questi extracomunitari di questi di tutti i paesi, quelli che ci sono qua che vengono, chiamiamoli clandestini, là. E hanno fatto le feste, ognuno doveva preparare un piatto, dove c'era quello del Ghana, dell'Etiopia, dell'Eritrea, quello di Bosnia e Costa d'Avorio, ognuno, c'erano diversi stati, poi c'erano anche che non erano clandestini, gente per dire nel Messico, Colombia, eccetera, e c'erano tante rappresentanti di ognuno, e ci hanno invitato questo gruppo di Porto Torres, non so di dove erano, credo di Porto Torres, perché da l'accento Maria, erano tutta gente anziana, oltre 70 anni, hanno iniziato a cantare in sassarese, ma musicisti con le contropalle, io sono rimasto a bocca aperta, hanno fatto di tutto di più, canzoni fatte da loro e fatte da altri, da Giovanni Giordo, Ruzze, ma tu li dovevi sentire cantare e suonare, questo è il minimo che ci avevano 75 anni, ma hai visti e conosciuti, perché era un gruppo, ma tu li dovevi sentire cantare e suonare, una voce, spavento, sono stati roba di 3 ore e cantare, e poi mi sono messi a fare canzoni, diciamo anche per far ballare, internazionali, di cosa, ma hanno fatto la serata loro, era una cosa mai vista, chi se lo immaginava, vedi, c'è tanta gente che tu non conosci, o i tre sardi, non so se l'hai visti tu suonare. Già lo so, non conosco meglio, perché non arrivo le bombole al locale, no, che da sopra messa, gliele porto io, no, li conosco bene, li conosco, ma c'è tanta gente che sta suonando, anche quelli che suonano la chitarra sassarese, quelli sono artisti, sono professionisti. E dagli cazzo anche un brano, fai suonare pure Guantanamela, vedi non te la zona niente. Cioè, sono gente che è abituata, sono artisti quella gente lì. E cosa li puoi dire? Certo, quelli che suonavano con Giovanni Nogiorno, te lo ricordi? Uno è amico, lo conosco bene, e poi ho scoperto che fratello era bravo lo stesso, fratello, e tu da dove ne sei uscito? Io sono sempre suonato, non sapevo nulla. Guarda che ci sono tanti artisti, ci sono, che noi non sappiamo, ma gente che la chitarra la sa fa suonare vero, e non solo, altri anche strumenti. Certo, io ho conosciuto una persona, se lo sentivi suonare gli strumenti a corda, dal violino, mandolino, il suocero di mio fratello. Se suonare questo, tutti gli strumenti a corda, li potevi dare anche l'arpa, violino, la vicema, cosa sono tutti gli strumenti all'acqua? Che era una cosa spaventosa, e tu dici, dove cacchio è uscito questo? E per dire, non era un professionista, però se lo sentivi, professionista nel senso, non faceva serate, ma se lo sentivi suonare, rimaneva a bocca aperta. Ma il vero artista è quello. Il vero artista è gente che sa suonare. Cantare è una cosa che è bella. Cantare, suonare, cioè, gente che sa fare cose. Ah, è cazzo di gaggone che non vuole andare, eppure si fanno i famosi. Allora, sto parlando di questi gruppi sassaresi, i ragazzotti che si fanno, non facciamo nomi perché non si fanno nomi, ma già li conosce, dico, ma dove hai imparato tu a cantare e a suonare? Una vergogna, poi adesso tutto strumenti sottofondo, non esistono più le chitarre, adesso mettono tutta roba sintetizzata, batterie e strumenti vari e roba fatta a computer, invece ai tempi della vera cantare sassaresi c'era solo la chitarra e la voce del cantante. Vabbè, non può mettere una base, può mettere e sa cantare, ma lì c'è il merito. E che da su gaggone che ne è uscito, anche che te l'avrà pigliato che c'è un uomo, che c'è San Giovanni. E buff, io li ho sentito almeno 4-5, ma non vogliono sentiti, oltre che non vogliono visti. Poi se ti vuoi fare due risate, vai a una radio privata il sabato e ti mette la mano in testa, ci sono questi due grezzoni che non ne possono più, se li senti andando musica e facendo battutine stupide, non sanno dire tre parole in croce e li vedi facendo programma in sassarese, questi. Ma che cosa? Zio Beppe? No, Zio Beppe è quello, Radio Venere, quello non lasciamolo stare, quello di Assarraggio. Questo è bravo un bel strumento, è una bestia. Ma ora stiamo parlando di musicisti, adesso sto parlando di un'altra radio. Ce ne sono tre che danno programmi in sassarese, non facciamo i nomi, ma ce ne sono due che non vogliono né visti né sentiti, una vergogna. Grezzi che non ne possono più, cioè fa programma in sassarese, quel Beppe, Radio Venere, ascoltato, lo fa la domenica mattina e sino a luna rimane tutte le domeniche, ma è molto ascoltato, anche i carcerati lo ascoltano, mandano i messaggi eccetera. Però quello è un musicista, quello canta alle serate anche lui, ma è bravo, quello prima era Radio del Golfo. Io vorrebbe un musicista, sa cantare, sa suonare, cazzo lo dice la chitarra, la base andava a mille, la base andava. Vabbè, stiamo parlando di un professionista, guarda che qualche volta mi ha detto che trasmette anche, non so se l'hai mai sentito, Luca. Ogni tanto va a trovare Zio Beppe. Luca chi? Luca! Ma Luca la monta? Ehi! Non lo so, c'è andato a fare compagno, non lo so quello. Qualche volta! No, non lo so, vabbè, Luca già si sta arrangiando con la chitarra, io l'ho conosciuto all'inizio che era, stava trimpellando, poi adesso cacchio c'è bravo, è diventato molto buio. La cosa che c'è di bello Luca che è molto appassionato, quando si mette a fare una cosa, per dire, quando ha iniziato a fare i computer, piano piano, e poi adesso ti porti qualunque computer e telefonino e te li sistema, te li apri, te li fa pizza e te li sistema, per dire, è un appassionato, e quando una cosa la fai con passione riesci a fare belle cose, e così la chitarra. E quello, le persone che ammiro sono quelle che iniziano così come divertimento e poi piano piano diventano, da autodidatti diventano quanto quelli che hanno studiato veramente. Ok, ma tu, io ti lascio che andiamo a mangiare qualche cosa e poi mi guardo un po' ascoltatori di televisione. Grazie per la chiacchierata, ci sentiamo in altre situazioni. Ciao ciao, saluto anche gli amici, qualcuno che ha ascoltato, canale 10. Ciao ciao. Ciao Luca, ciao. Suonare e cantare, te lo assicuro io. Ok, ciao ciao, ci sentiamo.